Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, il libro di cui parliamo questa volta è La società post-crescita di Giampaolo Fabris. Buonasera professor Fabris. Buonasera. Giampaolo Fabris è professore di sociologia dei consumi alla IURM di Milano, è presidente di Epistemi, una piccola boutique di ricerca, è un grande esperto delle logiche legate appunto al consumo, ha scritto numerosi libri sulla comunicazione, sui consumi, sul marketing, su come sta cambiando questa nostra società. Una società appunto post-crescita, una società che sta scontando i colpi di una crisi economica che negli ultimi mesi è stata particolarmente forte. Allora inizierei con il professor Fabris chiedendogli se è vero che nulla sarà più come prima da un punto di vista appunto dei consumi, della società, degli stili di vita dopo la crisi che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Ma forse nulla è un po' iperbolico, però certamente gli elementi di discontinuità, a mio modo di vedere, stanno superando quelli di continuità, perché sono tanti gli elementi che evolvono contemporaneamente. Certamente lo sviluppismo, l'idolatria della crescita a tutti i costi ormai ha limiti sin troppo evidenti. Tra l'altro non solo c'è un problema di sostenibilità ambientale, ecologica, riscaldamento del pianeta, sperequazione delle risorse, ma si sta anche profilando da parte dei consumatori un atteggiamento di disagio nei confronti di un'offerta crescente, e quella relazione che era stata così netta in passato tra aumento del reddito, aumento del consumo e aumento della felicità si è invece da un po' di tempo incrinata. Quindi c'è una forte attesa e in parte anche una richiesta, in parte anche già delle dimostrazioni tangibili di nuovi modelli di consumo e di nuovi stili di vita che stanno emergendo. Ecco, vedremo gli stili di vita, vorrei però prima vedere un attimo, guardando appunto quello che è l'evoluzione della società. Lei parla di post-crescita, e alcuni parlano di decrescita come prospettiva, il francese Latouche addirittura è il profeta della decrescita. Lei mi sembra non è d'accordo con questa ipotesi? Non ho molta simpatia, francamente, perché mi sembra troppo comoda, aristocratica come posizione, no? Quella del fermate il mondo, voglio scendere, mi sembra elitistica e mi sembra tra l'altro improponibile, perché ormai significa soprattutto fare un passo indietro, a mio modo di vedere, tra i consumi primari che sono corretti e altri tipi di consumi che invece bisogna in qualche modo demonizzare. Mi sembra un po' questa cultura la figlia della demonizzazione del consumo, che è stata un elemento importante anche nella nostra società. Si finisce per in qualche maniera non cogliere i significati invece liberatori che il consumo ha, che ha sviluppato. Certo c'è un problema di misura adesso, ma io credo che il regredire, come spesso fa Latouche e i tanti che sono occupati di decrescita, a delle periodi storici che ormai sono inattuali. I bisogni sono storicamente determinati, quindi evolvono costantemente, non si può dire quali devono essere perseguiti e quali no, ci vuole a mio modo di vedere un approccio più olistico. Quindi lei parla di crescita diversa, di una crescita che coniughi la responsabilità ambientale con quella psicologica e sociale, una crescita appunto... Sì, è così, perché spesso c'è stato un forte aumento del potere del consumatore in questi anni, che però a differenza del passato non è soltanto rivolto a tutelare i propri interessi, a quello che si chiama il best buy, insomma comprare al meglio possibile, ma è un nuovo consumatore che ha anche consapevolezza di avere dei doveri e delle responsabilità. E questo lo si vede con grande chiarezza in alcuni comparti del consumo. Io ho studiato in maniera particolare l'alimentazione, perché forse è quel settore antropologicamente più ricco. Beh, noi vediamo che le preferenze, gli orientamenti dei consumatori cominciano a orientarsi verso alternative molto diverse rispetto a quelle del passato. Un esempio per tutti, il biologico. In un momento in cui c'è meno soldi da spendere e quindi bisogna fare attenzione a dove mettere tutte le lirette. Il biologico, che pure costa di più, è aumentato del circa 10% nell'ultimo anno, e non sono i radical chic, nemmeno i ricchi, che hanno alimentato questa domanda. Quindi ecco, sul fronte dell'alimentazione c'è anche appunto un problema, una maggiore attenzione alla salute, quindi si mangia forse un po' meno e si cerca di mangiare un po' meglio. Esattamente, ma direi, andrei ancora al di là di questa cosa. Attenzione alla salute, quindi si mangia un po' meglio, ma si prende anche consapevolezza che il cibo deve venire dal territorio circostante, se possibile, e che bisogna salvaguardare l'ecocompatibilità della produzione agricola. C'è un interesse per il mondo contadino. Io sono stato recentemente a New York e non ho mai visto tanti farmers market a Manhattan come quelli che ho visto in questi giorni. Quindi è veramente un fenomeno, a mio modo di vedere, importante, che si va sviluppando, di una concezione nuova e diversa nei confronti del consumo. E paradossalmente è proprio l'alimentazione, con il mangiolismo, con la bulimia imperante, che ci dà delle suggestioni su quanto ormai il livello di misura sia stato superato. E questo noi forse... stiamo diventando bulimici in una serie di comparti del consumo anche, e di questo la gente comincia ad avere consapevolezza. E quindi dall'alimentazione questa tendenza si estende anche ad altri stili di vita. Possiamo pensare alle vacanze, al successo che hanno gli agriturismi rispetto agli alberghi di lusso, al fatto che molti riscoprono come sia bello camminare a piedi invece che fare grandi viaggi intercontinentali. C'è forse la riscoperta di un modo di stile, uno stile di vita più semplice? Ma guardi, io vedo, lei sa che io monitorizzo ormai da tanti anni i trend sociali, ci sono alcuni trend che si vanno sviluppando in maniera impetuosa, non sono, attenzione, quelli più condivisi dalla popolazione italiana, ma sono quelli che fanno registrare il maggiore incremento di consensi, e si chiamano autenticità, rallentamento del tempo, recupero selettivo del passato, attenzione all'ambiente, che non hanno, ovviamente nessuno di questi, apparentemente potrebbe sembrare trend di tipo regressivo, in realtà sono diversi rispetto a come si esprimevano in passato, ma configurano già degli stili di vita, una proposta di civilizzazione molto diversa rispetto a quella che stiamo lasciando alle spalle. Ecco, ma in qualche modo c'è anche una riscoperta del passato. Lei a un certo punto nel libro parla di questo negozio di Corso Buenos Aires, vecchio di oltre 100 anni, in cui si affollano gli oggetti più disparati, che probabilmente dovrà chiudere, che però è un pezzo di storia a cui sono legate molte persone, non solo per la nostalgia, ma anche in fondo per una ricerca di identità. Esattamente, la ricerca di identità, spesso il passato, con le radici che ci propone, ci dà dei brani importanti, ci fornisce dei brani importanti di identità. E poi, mentre fino a un recente passato il passato era passatismo in qualche maniera, adesso, sia pure in maniera selettiva, si scopre che nel passato c'erano stili di vita, modelli di consumo, oggetti, negozi, che rappresentano tuttora un benchmark importante in termini di qualità o di identità. E come cambia il marketing in questa società della post-crescita? Questo è peraltro uno dei capitoli del suo libro. Ma senta, il marketing, ahimè, è rimasto indietro perché continua ancora a riproporre modelli che hanno avuto uno straordinario successo in un recente passato, ma adesso, a fronte della discontinuità del presente, del passaggio d'epoca, sono sostanzialmente anacronistici. Io ho l'impressione che combatta le sue battaglie ormai in larga misura con le armi che ha usato in conflitti precedenti che hanno avuto successo. Forse il marketing deve prendere consapevolezza che io uso spesso questo neologismo di society, no? Che al posto del market c'è la società, e allora tutto diventa immediatamente più trasparente. Devo dire che è sciocco fare di tutta erba un fascio, perché ci sono aziende, anche grandi aziende, grandissime aziende multinazionali, che sono orientate in questa direzione, ma non è la prassi, ahimè, purtroppo. Ecco, guardando un po' la realtà italiana, la realtà economica, anche la realtà produttiva, questo cambiamento di stili di vita, questa appunto tensione verso quello che è più semplice ma anche più bello, quello che dà più soddisfazione, lascia spazio a quella che è la creatività italiana, al gusto del bello, alla moda, a certe caratteristiche in fondo della produzione del Made in Italy. Ma a mio modo di vedere non solo lascia spazio ma la esalta. Per esempio la ricerca del bello, che non sia soltanto un'operazione di make-up da marketing, è un altro dei grandi trend e apprezzamento della creatività. Così naturalmente bisogna cambiare qualcosa. Per esempio, pensi che nel settore della moda una delle richieste insistenti da parte del consumatore è la durata. No, che è caratteristica per esempio di tutto il comparto del lusso, no? Quindi non ci sono settori che potenzialmente sono esclusi da questa attualità anche per il consumatore, però la durata era una richiesta che facevano le nostre nonne ai prodotti, no? E adesso vediamo invece il prodotto di lusso, il prodotto bello, a mio modo di vedere, ha come caratteristica strutturale anche quello della sua durata. Ecco, c'è un capitolo del suo libro, ci avviamo alla conclusione, in cui si parla di economia e società, un preoccupante divario. Indubbiamente gli economisti sono stati messi sotto accusa per non aver saputo comprendere in tempo la gravità della crisi, ma stanno cambiando, cioè stanno cercando di capire meglio quali sono i fenomeni sociali, cioè l'economia forse dovrebbe imparare un po' di più dalla psicologia e un po' meno dalla matematica. Ma forse sì, dovrebbe tornare a essere quello che era una volta, che è una scienza sociale. A me quello che preoccupa, e che scrivevo proprio in quel capitolo, è questo continuo appello degli economisti al rilancio dei consumi. Sembra quasi che si sia invertita, ma il rilancio dei consumi certamente sia importante, però forse dobbiamo chiedere quali consumi, se servono davvero. Mi sembra che si sia ribaltato il rapporto tra consumatore e economia, che sia il consumatore che stia diventando al servizio dell'economia, con una continua coazione all'acquisto, anche al di là di quelle che possono essere le sue esigenze, piuttosto che l'economia, che invece istituzionalmente dovrebbe essere al servizio del consumatore e del cittadino. Ecco, speriamo che il cittadino possa tornare appunto protagonista delle sue scelte, che l'economia sappia dare le risposte giuste a queste scelte. Grazie al professor Giampaolo Fabris, abbiamo parlato con lui della società post-crescita, consumi e stili di vita, un libro di 420 pagine, costa 26,50 euro, edito da Egea. Ringrazio quanti ci hanno seguito, ringrazio Filippo Aureggi in regia, Anita Panizza in redazione. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato quando volete sul sito www.radio24.it. Buona serata.